Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Mi ritengo da nulla se mi considero, ma da molto se mi paragono. Questa sarebbe proprio da scriversela e mettersela in un angolo, è una frase bellissima. E l'uomo che ha pronunciato questa frase non può essere considerato da nulla sotto nessun profilo. È stato uno degli uomini più importanti e determinanti della sua epoca. È stato uno dei quadrunveri della Marcia su Roma, comandante generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, sottosegretario all'economia, ministro dell'aeronautica nel 29, promotore delle prime crociere aeree transatlantiche italiane e infine governatore della Libia dal 1934. Ma stiano tranquilli quelli che hanno il fucile puntato, perché questo non era un fascista, era molto di più, e noi vi racconteremo una grande storia. La frase con la quale abbiamo aperto la nostra puntata lo identifica in pieno, ne evidenzia uno spirito battagliero, la voglia di confrontarsi continuamente, di mettersi in gioco, e naturalmente ne rivela anche una certa autostima, una consapevolezza di sé, e questa per me è una qualità. L'autostima, se hai qualcosa per cui stimarti, è una qualità. Oggi si parla di eroismo ai massimi livelli. Il nostro protagonista è uno degli artifici della storia, quella con la S maiuscola. Raccontiamo oggi la vita avventurosa e eroica del Cavaliere del Cielo, così è stato definito Italo Balbo. Un uomo d'azione, una delle figure più capaci, più prestigiose dell'Italia del ventennio, un eroe di guerra, insignito di diverse medaglie al valor militare, ma soprattutto, e ricordiamolo, uno straordinario pilota, un aviatore della prima ora, un pioniere dell'aria, uno che di colpi d'ala ne ha veramente dati tanti in tutti i sensi, un uomo innamorato della velocità, dell'altitudine, della sensazione impagabile che si doveva provare un tempo volando come si volava allora, perché allora si volava col vento in faccia. Chi vale vola, chi non vola non vale, chi vale non vola è un vile. E questo era il motto che campeggiava nell'atrio del Ministero dell'Aeronautica al tempo di Italo Balbo, un motto probabilmente d'Annunziano, comunque di stile d'Annunziano, se non addirittura di D'Annunzio. E il culto patriottico dell'aviazione era legato al mito virile dell'uomo, e le imprese delle ali italiane erano un vanto del nostro paese, era qualcosa di riconosciuto in tutto il mondo. Italo Balbo è stato il fautore di questo immenso successo, ha scritto una pagina gloriosa della nostra vicenda, rimasta al di sopra del credo politico, al di sopra degli eventi strettamente legati al fascismo. Abbassino le armi quelli che pensano che questa sia una puntata di ideologie, questa è una puntata di eroi. Gli assi del volo italiani sono celebrati ancora oggi come grandi eroi immortali. E allora raccontiamola, la vita avventurosa di Italo Balbo. Ha segnato un'epoca, ha gettato le basi dell'aviazione moderna italiana, è forse l'unico esponente sul quale non si è potuta abbattere la damnatio memoria, la scure, la demonizzazione che hanno contraddistinto la memoria dei protagonisti del fascismo. I meriti di Balbo sono talmente tanti che ancora oggi la Repubblica Italiana lo ricorda degnamente con mostre, convegni, gli intitola strade, piazze. Insomma, su di lui si scrivono dei libri, il suo valore non può non essere riconosciuto, soprattutto quello legato alla sua fama di aviatore. E vedremo che forse c'è anche un'altra spiegazione a questo fatto, a questo salvataggio della sua figura storica, e il centro della sua vita politica è collegato a un rapporto molto conflittuale con Benito Mussolini. Italo Balbo nasce il 6 giugno 1896 a Quartesana, è una frazione di Ferrara. Lui è il quarto di cinque figli, i genitori sono maestri elementari, ma dai documenti scolastici peraltro emerge un alunno poco brillante, come spesso succede nei casi di menti eccelse. Lui aveva un'intelligenza superiore, insomma la scuola gli andava stretta. Alla fine riesce a diplomarsi, si laurea anche dopo la fine della prima guerra mondiale, ne siamo nel 1920, si laurea laurea in scienze sociali e fin da quando è piccolo lui si interessa di politica. I suoi sono monarchici, lui invece è più di idee repubblicane. Frequenta i caffè letterari di Ferrara, dove c'è una forte attività politica. A 15 anni, siamo nel 1911, è venuto a sapere che Ricciotti Garibaldi, cioè il figlio di Giuseppe Garibaldi, sta organizzando un'offensiva per liberare l'Albania dal dominio ottomano. Scappa di casa e si imbarca con questa spedizione, viene bloccato dalla polizia e rispedito a Ferrara perché è minorenne. Nel 1914, e ricordiamo Balbo ha solo 18 anni, lui si schiera apertamente col movimento interventista a favore della guerra contro l'impero austro-ungarico. Partecipa a una manifestazione molto importante che si svolse a Milano e che si rivelerà determinante nella sua vita futura, perché durante quella manifestazione conosce l'uomo destinato a cambiare le sorti non solo della sua vita ma anche di tutta l'Italia, perché a quella manifestazione Balbo incontra per la prima volta Benito Mussolini. Naturalmente allo scoppio della Prima Guerra Mondiale Balbo si arruola volontario, presta servizio nel battaglione alpini Valfella e diventa tenente. Nel 17 però lascia questo battaglione perché accolgono la sua domanda di entrare al deposito aeronautico di Torino. Vuol fare un corso di pilotaggio, vuole inseguire il suo sogno, la sua vera grande passione, però non è ancora il momento per lui, per il battesimo dell'aria. Pochi giorni dopo si scatena l'offensiva austro-tedesca, lui deve tornare al fronte assegnato al battaglione alpini Monte Antelao. La Prima Guerra Mondiale è la guerra per eccellenza, la guerra più dura, è la guerra di fango, di trincee, fatta in luoghi difficili, impervi. Balbo si fa onore anche lì, partecipa all'offensiva sul Monte Grappa con gli alpini del battaglione Pieve di Cadore, gli Arditi, con i quali libera la città di Feltre. Anzi, è il primo italiano che metterà piede nella città liberata e una targa lo ricorda ancora. Si guadagna due medaglie d'argento e una di bronzo al valor militare e il grado di capitano. Dopo la fine della guerra Balbo va a Firenze e nel 1920 si laurea e finalmente torna a casa a Ferrara. Sta cercando lavoro e gli viene offerta la segreteria del fascio ferrarese. Però bisogna dire una cosa: il fascio futurista cittadino di Ferrara è un partito appoggiato anche da Filippo Tommaso Marinetti. Nel suo programma è forse più vicino alle richieste socialiste dell'epoca che non a quello che diventa il fascismo. Poi si parla di diritto di sciopero, di aumenti retributivi, di suffragio universale, di libertà associativa. Insomma, sono ancora anni nei quali attorno al fascismo si radunano anche correnti molto disparate di pensiero. Balbo diventa segretario del fascio ferrarese il 13 febbraio del 1921 e diventa di fatto una delle figure di punta di tutto il movimento. Quando nell'ottobre del 22 Benito Mussolini organizza la marcia su Roma con l'obiettivo di prendere il potere, annuncia i nomi dei quadrunviri che avrebbero condotto la marcia. Italo Balbo è il primo della lista, insieme a Emilio De Bono, comandante della milizia, al generale Cesare Maria De Vecchi, a Michele Bianchi, segretario del partito e fedelissimo del duce. 28 ottobre 1922 e la marcia su Roma. Il fascismo dà la scalata al potere. Il 24 ottobre, al congresso fascista, 40.000 squadristi sfilano per le strade di Napoli. Mussolini afferma: il fascismo non andrà al governo passando dalla porta di servizio. O ci daranno il governo o ce lo prenderemo marciando su Roma. Mussolini arriva a Roma in vagone letto, chiamato dal re con un telegramma. Il neodittatore ha solo 39 anni. Balbo, il più giovane dei quadrunviri, ne ha solo 26. Questa era una ricostruzione della marcia su Roma di Gianni Bisiak. Con la salita al potere di Mussolini, Italo Balbo diventa membro del Gran Consiglio del Fascismo. Il 1 febbraio del 23 viene nominato comandante generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, la Forza Armata e Corpo di Gendarmeria dello Stato, in pratica le camicie nere. Intanto lui continua però la sua attività privata. Nel 19, al termine della Prima Guerra Mondiale, aveva fondato un giornale, l'Alpino, pensate, che ha proseguito le sue pubblicazioni fino a pochi anni fa. Nel 23 fonda un altro giornale a Ferrara, il Corriere Padano, ne affida la direzione al grande giornalista Nello Quilici, padre di Folco Quilici. Nel 24 riesce anche a sposare la donna della sua vita, la contessina Emanuela Florio, che aveva conosciuto 5 anni prima. Lui l'avrebbe voluta sposare subito, non aveva potuto perché era osteggiato dal padre di lei, il conte Florio, che non aveva mai voluto saperne di Balbo. Poi il conte muore e i due si sposano, avranno 3 figli, Giuliana, Valeria e Paolo. Nel 24 però Balbo si trova al centro di una vicenda dalle tinte molto forti, perché viene accusato di essere il mandante dell'omicidio di Don Giovanni Minzoni, parroco antifascista di Argenta, che viene trucidato da 2 squadristi facenti capo alle sue milizie. Il caso verrà archiviato e Balbo verrà giudicato estraneo. Poi, a seguito del delitto Matteotti del 25, verrà riaperto su pressione della stampa e il risultato del procedimento è un'assoluzione piena anche stavolta, però per Balbo naturalmente, insomma, è una pagina sofferta della sua biografia. Nel 25 entra a far parte del governo Mussolini, sottosegretario all'economia nazionale, un ruolo che non gli piace, e in seguito dirà che si sentiva a disagio come il diavolo in un convento. Dopo un anno viene nominato finalmente sottosegretario di Stato all'aviazione. Qui naturalmente le cose cambiano, perché qui è nel suo e comincia a organizzare la neocostituita Regia Aeronautica, la costituisce come una forza armata autonoma. Siamo ancora ai primi passi, i bilanci sono insufficienti, bisogna ammodernarsi e c'è bisogno di, come dire, dare prestigio all'aeronautica italiana. E Balbo attua il suo colpo d'ala, un'operazione saggia, lungimirante, che porta l'aviazione italiana a trasformarsi in qualcosa di stupefacente. Intanto prende lui stesso il brevetto di pilota, siamo nel 27, poi dà una sede stabile al ministero facendo costruire un nuovo palazzo con dei criteri architettonici avveniristici, e poi avvia la fondazione della città dell'aria, Guidonia, dove fa costruire un modernissimo centro di ricerca e di ingegneria aeronautica. Poi crea la scuola di alta velocità a Desenzano del Garda, dove prima sorgeva l'idroscalo privato di D'Annunzio, ma soprattutto dà l'avvio alle cosiddette crociere aeree, che lui compie in formazione, trasformando il concetto stesso di aviazione dell'epoca, che nell'immaginario collettivo era fino a quel punto la figura di un asso alla baracca, uno che vola in solitaria. Balbo ha la sua intuizione geniale. È il vero colpo d'ala, da tutti i punti di vista, scusate il gioco di parole, crea le squadriglie che attraversano i cieli e tra lo stupore della gente compiono imprese mai realizzate prima, dei veri e propri eventi che regalano all'aviazione italiana una fama e una popolarità che varca i confini nazionali. Leader of the greatest mass flight in history led his plane into safety. The squadron rests in North American waters, Italy's magnificent gesture of friendship. E oggi, quando portiamo i ragazzini o andiamo noi stessi a vedere le evoluzioni delle frecce tricolori, forse non pensiamo che tutte queste cose le ha inventate lui, le ha inventate Italo Balbo, che scrive una pagina nuova della storia del volo. Ripeto, non più imprese individuali affidate al coraggio e alla buona sorte di un singolo eroe, ma degli spettacolari viaggi di numerosi apparecchi militari in formazione. Ci vuole una preparazione oculata, metodica, insomma bisogna fondere l'impresa sportiva con la dimostrazione di alta efficienza bellica. È un'iniziativa che ovviamente trova l'ampio consenso anche del Duce. E la prima crociera aerea ideata da Balbo si compie nel Mediterraneo occidentale. La organizza assieme a un famoso trasvolatore che si chiama Francesco De Pinedo. 26 maggio 1928, partenza, 2 giugno arrivo. 61 velivoli, seguiti da una scorta navale di 2 cacciatorpediniere, partono dalla base di Orbetello, toccano le coste di Francia e Spagna, con scali ogni 400-500 km e non ci si può rendere conto forse di quanto questa sia per quei tempi un'impresa. È un'impresa che si svolge in maniera perfetta, senza incidenti, senza avarie. L'ammiraglio Vendry, comandante della piazza marittima di Tolone, la definisce la più grande manovra di masse aeree mai effettuata al mondo. E Balbo viene nominato da Mussolini generale di squadra aerea, un avanzamento di grado mai visto prima nelle forze armate italiane. Dopo il grande successo della prima crociera, lui vuole organizzare una seconda, questa volta nel Mediterraneo orientale. Lo stormo di formazione è composto da 35 velivoli che si sollevano da Taranto il 5 giugno del 29. Faranno scalo ad Atene, a Istanbul, a Varna, a Odessa, a Costanza e rientreranno fino a Orbetello. E dopo il successo di questa seconda crociera aerea, a 33 anni, il 12 settembre 1929, Italo Balbo diventa ministro dell'aeronautica, carica detenuta fino a quel momento dallo stesso Duce. Ma Balbo sta pensando a ben altro che alle crociere del Mediterraneo. Lui ha in mente un altro colpo d'ala, il più grande, destinato a restare in eterno, a scrivere una delle pagine più gloriose non solo dell'aviazione italiana, ma della storia stessa dell'aviazione mondiale. E l'idea gli viene durante un congresso internazionale negli Stati Uniti. Si convince che il primo gruppo di aerei che avesse traversato in formazione l'Oceano Atlantico sarebbe passato alla storia. È un'impresa che non aveva mai tentato nessuno, rischiosissima, è un'impresa peraltro inattuabile con i velivoli in dotazione in quel momento, e velivoli che non avevano un'autonomia di carburante sufficiente. Ma Balbo troverà la soluzione a questo inconveniente tecnico, ed è una soluzione destinata a sovvertire gli schemi, a rompere le consuetudini, a regalare al mondo intero un'impresa trionfale. Il Falco e il Gabbiano. Il protagonista di oggi è l'inventore della grande aviazione italiana e in qualche modo uno dei cardini dell'aviazione mondiale. Lui soprattutto è stato un pilota, un aviatore della prima ora, un pioniere dell'aria, un innamorato del volo e del cielo. Ma il nostro protagonista Italo Balbo è stato anche molto altro: quadrunviro della marcia su Roma, comandante generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sottosegretario all'economia, ministro dell'aeronautica nel 29, è stato il promotore delle prime crociere transatlantiche italiane e poi nel 34 è stato anche governatore della Libia. Ma nel nostro racconto siamo arrivati al 1930, l'anno decisivo per lui, Italo Balbo, e per l'aviazione italiana. Eh sì, perché lui ha in mente di realizzare un'impresa mai compiuta fino a quel momento, la trasvolata oceanica intercontinentale in formazione, una crociera aerea transatlantica verso le Americhe. C'è un problema che apparentemente è insormontabile: il tragitto è molto lungo, gli aerei devono fare rifornimento e quindi scalo. E lui ha un'intuizione geniale, riesce a convincere l'ingegnere aeronautico Alessandro Marchetti, titolare della storica azienda Savoia Marchetti, a costruire degli idrovolanti speciali, gli S-55A e poi S-55X, che riescano ad ammarrare, a ricevere il carburante da una nave d'appoggio anche nel mezzo dell'oceano. I Savoia Marchetti vanno a equipaggiare uno stormo creato ad hoc nell'idroscalo di Orbetello, diretto da uno dei più grandi piloti italiani di tutti i tempi, il comandante Umberto Maddalena. E lo stormo dei Savoia Marchetti raggiunge Rio de Janeiro nella prima trasvolata, parte da Orbetello il 17 dicembre del 1930, arriva in Brasile il 15 gennaio del 31. La seconda mitica trasvolata parte il 1 luglio del 33 e porta la formazione a Chicago il 12 agosto successivo. È l'apoteosi per Italo Balbo e per tutta l'aviazione italiana. Aviation's greatest feat of that year was the mass flight of an Italian air armada to the Chicago World's Fair. General Italo Balbo led his fleet of 24 giant seaplanes, landing in flawless array. On the 6,100-mile return flight to Orbetello, Italy, he paused to receive a hero's welcome from New York City. Millions jammed lower Broadway to cheer Balbo, his 96 officers and men, perhaps the most effective goodwill ambassadors from Italy during Mussolini's entire reign. Italo Balbo è all'apice della sua carriera e della notorietà mondiale, finisce addirittura sulla copertina della rivista Time, forse è addirittura più famoso di Mussolini. Mussolini che però sta traendo grande prestigio da queste imprese mitiche dell'aviazione regia, e si chiamava così perché in Italia c'era ancora la monarchia. Durante i 20.000 chilometri del vostro volo, che col passare del tempo diventerà leggendario, centinaia di milioni di uomini in tutte le lingue del mondo hanno pronunciato il nome Italia. Ma nonostante le grandissime dimostrazioni di stima, di considerazione di Mussolini nei confronti dell'eroe Italo Balbo e delle sue imprese, molti cominciano a ritenere che la sua enorme popolarità venga vista dal duce con un po' di sospetto, e forse è per questo, almeno così dicono molti storici, che Balbo viene nominato governatore della Tripolitania italiana, della Cirenaica, del Fezzan, insomma della Libia. È quello che i latini chiamano promoveatur, ruta moveatur, cioè ne promuovi uno per togliertelo un po' dalle scatole, e si sospetta che Mussolini lo spedisca lontano per gelosia del suo successo. E Italo Balbo infatti parte a malincuore per l'Africa, perché lascia la sua amata aviazione, ma quando il 16 gennaio del 34 sbarca a Tripoli, il suo animo mai domo è già pronto per una nuova sfida. Intanto lui dà un fortissimo impulso alla colonizzazione della Libia, organizza l'afflusso di decine di migliaia di pionieri italiani che si trasferiscono lì, segue una politica di integrazione, di pacificazione con le popolazioni musulmane, fa chiudere i campi di concentramento italiani che erano stati creati durante gli anni della conquista, finanzia servizi scolastici e sanitari, rifornimenti idrici, dà consulenza agricola e poi crea ospedali che lì in Libia prima di Balbo non esistevano. E nel 37, durante una visita del duce in Libia, Balbo si fa promotore di una iniziativa personale, vuole donare alla popolazione libica, quale premio per aver prestato servizio militare in Etiopia, la cittadinanza italiana. Non ci riuscirà, solo pochi cittadini libici otterranno una cittadinanza italiana, diciamo, di seconda classe. Balbo non si demoralizza, va avanti nella sua opera, crea l'ente turistico alberghiero della Libia che promuove viaggi di vacanza, organizza spettacoli teatrali e musicali, un gran premio automobilistico, sviluppa la rete stradale, fa costruire 1800 chilometri di litoranea che in suo onore verranno chiamati Via Balbia. Naturalmente però l'aviatore che è in lui non gli fa dimenticare la grande passione per i cieli. Nell'aeroporto di Bengasir crea il primo battaglione paracadutistico italiano, il battaglione Fanti dell'Aria, che avrebbe poi dato origine alla mitica Folgore. Ma arriviamo ai fatti tragici del 39. I tedeschi invadono la Cecoslovacchia e Balbo si scaglia contro i membri del Gran Consiglio del Fascismo perché li accusa di lustrare le scarpe alla Germania, invita il duce a dissociarsi e allontanarsi da Hitler. Il suo dissenso lui l'aveva già manifestato nel 38, quando erano state promulgate le leggi razziali. Balbo è di Ferrara, una città storicamente di una rappresentativa ebraica molto forte, lui stesso ha molti amici ebrei, tra i quali l'ex gerarca fascista Renzo Ravenna, podestà di Ferrara, poi naturalmente epurato in quanto ebreo. Balbo si dichiara apertamente non interventista e fa un'affermazione che oggi appare profetica. Io spero che l'Italia non entri in guerra. Voglio aver fiducia nel senso realistico del duce. Ma se così non fosse, noi saremo sconfitti. Cadrà il fascismo, cadrà la monarchia, perderemo le colonie e ci potremo ritenere fortunati se si salverà l'unità d'Italia. E queste sono parole del febbraio del 40, quindi Italo Balbo dimostra veramente una lungimiranza politica, intellettuale, impressionante. E poi scoppia la guerra, lui sta comandando le forze italiane in Libia in quanto maresciallo dell'aria, le forze sembrano adeguate al teatro bellico coloniale, però si tratta di unità di fanteria con compiti difensivi. La regia aeronautica ha solo 250 velivoli in Libia, peraltro in maggioranza obsoleti, ospitati in basi sguarnite. Lui è contrario al conflitto e sa di non avere le forze adatte a sostenerlo, ma è un militare e si getta col suo solito fervore in quella che per lui sarà una guerra molto molto breve. Il falco e il gabbiano. All'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno 1940 gli italiani antitedeschi cominciano a essere veramente tanti, gente che non crede nell'alleanza di Mussolini con Hitler, e fra questi antitedeschi c'è anche lui, Italo Balbo, eroe dell'aria, governatore della Libia. Lui ha un conflitto aperto col Duce e si è espresso più volte in maniera chiara circa le sue perplessità quando Mussolini, dopo un anno di neutralità pacifista, decide di entrare nella mischia. Balbo se ne ritorna infuriato in Africa. Quella guerra lui l'ha predetta difficile e lunga, così sarà, ma per lui invece sarà una guerra molto breve. Il 28 giugno del 40 l'Italia è entrata in guerra da appena 18 giorni. Italo Balbo si leva in volo da Derna per raggiungere il campo d'aviazione di Tobruk. Ci sono due trimotori, Savoia Marchetti, uno è pilotato da lui, l'altro dal generale Felice Porro. Devono individuare affinché poi qualcuno le catturi delle autoblinde nemiche. L'equipaggio di Balbo è costituito da lui stesso che pilota, il maggiore Ottavio Fralis, il capitano motorista Gino Capannini, il maresciallo marconista Giuseppe Berti. E poi ci sono il maggiore Claudio Brunelli, tenente Cino Florio, cognato di Balbo, Lino Balbo, figlio di un suo fratello. E poi c'è il console della milizia Enrico Caretti, il capitano Nello Quilici, il padre di Folco Quilici. Sono le 17.30, loro arrivano in vista di Tobruk e i piloti vedono delle alte colonne di fumo che si levano nel cielo. Stanno cadendo delle bombe sganciate dai bombardieri inglesi. Siamo nel pieno di un attacco britannico. E Balbo ordina di atterrare immediatamente per verificare i danni, ma non avverte prima la base. La contraerea di terra e quella a bordo dell'incrociatore San Giorgio scambiano i due velivoli italiani per aerei britannici. È una svista fatale. Aprono il fuoco. L'aereo del generale Felice Porro compie una manovra diversiva e sfugge ai colpi, ma il velivolo di Balbo, che è già in fase di atterraggio, viene centrato in pieno dal fuoco amico, ucciso da degli italiani. Precipita al suolo, si incendia e provoca la morte di tutto l'equipaggio. Ha reso l'Italia grande ed è morto per mano italiana. Il cordoglio arriva da tutto il mondo, anche se i venti di guerra stanno già sconvolgendo l'umanità. E Mussolini dichiara Balbo un bel alpino, un grande aviatore, un autentico rivoluzionario, il solo che sarebbe stato capace di uccidermi. Quindi parole sibilline ma significative. Ma è dalla parte avversa che arriva un messaggio commovente e incredibile. In quegli anni, due giorni dopo l'incidente di Balbo, un aereo britannico paracaduta sul campo italiano una corona d'alloro legata con un nastro tricolore insieme a un biglietto di cordoglio. Le forze aeree britanniche esprimono il loro compianto per la morte del generale Balbo, un grande condottiero e un valoroso aviatore che conoscevo personalmente e che il fato pose dalla parte avversa. Il biglietto porta la firma di Arthur Laymor, comandante delle forze britanniche aeree in Medio Oriente. Il nemico gli rende omaggio e lui è stato ucciso dai suoi stessi uomini. Una teoria che non va giù alla vedova di Balbo, la contessa Emanuela Florio. Lei sosterrà sempre l'ipotesi di un complotto politico ai danni del marito, un complotto ordito a Roma, magari addirittura dallo stesso Mussolini. È un'ipotesi che è stata scartata, però esiste una controversia e rimane qualche legittimo dubbio. L'analisi degli elementi raccolti e le indagini degli anni successivi portano a escludere qualche ipotesi diversa da quella più dolorosa, cioè l'errore umano, una falsa identificazione dei due velivoli italiani scambiati da aerei britannici e più il non aver avvisato la base, cioè stiamo tornando. Anche Indro Montanelli ha sostenuto peraltro questa tesi, lo stesso Folco Quilici che nell'incidente ha perso il padre nel suo libro Tobruk 1940 giunge alla conclusione che si sia trattato di un tragico incidente e così racconta il capopezzo Claudio Marzola del 202esimo reggimento di artiglieria il probabile responsabile dell'abbattimento. Ma che ordine di esecuzione, quale congiura! Quel giorno in batteria non c'era nemmeno un ufficiale. Io avevo 20 anni ed ero un ragazzino spaventato dalla guerra. Era dall'alba che stavamo subendo incursioni di bombardieri inglesi. Solcavano il cielo ogni quarto d'ora. Abbiamo visto 2 aerei sulla stessa rotta dei nemici. Si vedevano male e abbiamo aperto il fuoco. Diedi io l'ordine di sparare a raffica. Italo Balbo è morto, gli elogi su di lui sono incalcolabili e continueranno fino ai nostri giorni. A Chicago gli viene intitolata una via che c'è ancora, la Balbo Avenue, vicino al lago Michigan. I Sioux d'America gli offrono un rarissimo tributo, lo nominano capo indiano con il nome di Capo Aquila Volante e gli viene conferito il più alto riconoscimento del Regno d'Italia al valor militare, la medaglia d'oro per la sua grande impresa sui cieli di Tobruk. La verità inconfutabile sulla sua morte rimarrà un piccolo grande mistero, ma possiamo dire di sicuro che Italo Balbo è morto come aveva sempre voluto vivere e come forse avrebbe scelto lui stesso di morire, volando nei cieli che tanto amava. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, ci sono persone che hanno volato sopra le teste di tutti. Sono nulla se mi considero, ma molto se mi paragono. Questa era la sua frase, ma Italo Balbo invece era tantissimo e in anni nei quali abbiamo così pochi italiani dei quali andare fieri, questo è un bellissimo personaggio che abbiamo raccontato con grande gioia. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori o il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure venite a trovarci sul nostro sito, sui miei, sui nostri social, insomma se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni. Generation.